susuru aek lai suki gaadi ne kas ke mara break. Confuse mere dil mashwara mera tu aazma ke dekh yahi umar hai kar le galti se mistake yahi umar hai kar le galti se mistake yahi umar hai kar le galti se mistake yahi umar hai kar le galti se mistake beta. Thank you.